Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria nel giorno, come tutti i venerdì, in cui avremo l'appuntamento con la poco invidiabile classifica degli sprechi. Sorrido perché al primo posto abbiamo messo un caso che, io vi giuro, in tanti anni di classifica penso che siamo arrivati a un livello massimo, non per il danno in sé ma per la storia. Comunque non voglio rovinare niente, mi viene già da ridere perché non so come riuscirò a stare serio, ma è tutto purtroppo verissimo. Invece, per quello che riguarda la cronaca dell'attualità economico-finanziaria, partiamo dalla borsa: meno 0,60% in questo momento Milano, meno 0,80% Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 1,60% Londra, e più 0,20% il Dow Jones. E l'indice in realtà non segnala a sufficienza quello che sta capitando sul mercato, perché oggi il caso di borsa di nuovo, ma era un po' di giorni e qualche settimana diciamo che non ce ne occupavamo, si chiama Monte dei Paschi di Siena, meno 7,20%, situazione molto delicata, non perché sia successo qualcosa di particolare, ma perché, come anche scrive oggi su Sole 24 Ore Marco Ferrando, ci sono tantissimi dubbi sulla possibilità che Monte dei Paschi riesca a portare a casa l'aumento di capitale. Non si capisce ancora se a 5, a 3, a 2 miliardi e mezzo. L'obiettivo è 5, però magari altri soldi, come per esempio nel piano di Passera, potevano arrivare direttamente da fondi, da ingressi di fondi o di soggetti. No, il punto è un altro, è che molti si interrogano sul quanto riuscirà a reggere Monte dei Paschi da qua al referendum, e qui sì, come abbiamo già fatto notare 2 giorni fa, si intersecano due elementi che non dovrebbero intersecarsi, a mio avviso, cioè il fatto che ci sarà un referendum costituzionale importantissimo il 4 dicembre e l'operazione di salvataggio di una banca. Eppure, stando anche alle agenzie di questi giorni, anche il Monte dei Paschi stesso riconosce che gli investitori aspettano l'esito della del referendum del 4 dicembre per capire quale potrà essere l'esito della ricapitalizzazione del Monte dei Paschi. Cito testualmente la comunicazione del Monte dei Paschi: i riscontri ottenuti dalle banche del consorzio di collocamento evidenziano la sostanziale indisponibilità manifestata dagli investitori istituzionali, quindi chi deve mettere i soldi, non i privati, ad assumere importanti decisioni di investimento, quindi a partecipare all'aumento di capitale, relative a società italiana prima di conoscere l'esito del referendum costituzionale. Si legge questo nell'assemblea del Monte dei Paschi sull'aumento di capitale. Voi capite che a questo punto il cortocircuito è già immediato. Di questo parleremo. E poi la buona notizia per chi ha casa, quindi molti italiani, più dell'80%, è che è ripartito a questo punto in maniera abbastanza certa il mercato immobiliare, nel senso che ha fatto più 20% secondo trimestre, i mutui più 24%, è il residenziale, come era immaginabile, visto i problemi delle piccole e medie imprese soprattutto, che sta trainando. Le compravendite sono tornate a livello più alto dal 2011, 200.000 atti dal notaio in 3 mesi. Ora, sappiamo cosa succede, che non c'è un automatico trasferimento nell'andamento dei prezzi, però è chiaro che, come sempre, più aumentano le compravendite, più si riduce il tempo per la compravendita, poi a un certo momento questo si trasferisce prima o poi anche sui prezzi del mattone, non in maniera così intensa e non in maniera così veloce come uno potrebbe immaginarsi. Però era dal 2011 che non si vedeva un numero così alto di atti notarili, quindi di atti effettivi di compravendita. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sì, alcuni mi scrivono sul mercato immobiliare perché non sanno dove mettere i soldi. Può essere che vi sia chi ancora ha dei risparmi, e non sono pochi gli italiani che li hanno, e la liquidità che c'è in giro non trovando un indirizzo, diciamo così, affidabile sul mercato azionario, il mercato obbligazionario rende niente, addirittura rende in alcuni casi in negativo, è probabile che si vadano a indirizzare questi soldi sul mercato del mattone, ma ne parleremo nella seconda ora del programma. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, partiamo come sempre dai 100 secondi per quello che riguarda la cronaca, poi arriveremo anche ad alcune dichiarazioni del ministro Padoan. Aspettiamo un attimo perché li carichiamo dopo in regia. Allora andiamo avanti perché oggi siamo un po' stretti con la classifica. Partiamo subito dall'economia internazionale. Per quello che riguarda il petrolio, anche oggi un calo, poco però, sempre sui $44 al barile. Invece i dati diffusi oggi da Citigroup, altra banca americana che va ad aggiungersi nelle analisi al rischio Trump. Allora, noi avremo una lunga diretta che partirà martedì dalle ore 21, terminerà il giorno dopo alle ore 13, proprio sull'esito del voto americano. Non è un mistero che le banche d'affari sono molto preoccupate da Trump, addirittura Citigroup dice che lo Standard & Poor's potrebbe perdere 500, addirittura fino al 5%. Secondo Barclays, invece, banca inglese, il calo potrebbe essere maggiore, arrivando all'11-13% a fronte di un rialzo del 2-3% in caso di vittoria di Hillary Clinton. Poi non so se queste notizie vadano a favore di Trump, perché non è che le banche d'affari abbiano tutta questa buona stampa e godono di questa grande opinione, o invece vadano a vantaggio della Clinton. Delle nuove tensioni con la Turchia vi hanno raccontato i nostri GR. L'arresto del leader filo curdo e 10 parlamentari preoccupa non solo Renzi ma anche e soprattutto il Parlamento europeo. Invece, restando sull'Europa, mentre la vincitrice del ricorso alla Corte di Giustizia di Londra, Gina Miller, imprenditrice e attivista, ha ricevuto anche minacce di morte di stupro online dopo la vittoria di ieri. Io lo dico per far capire anche il tono che hanno i fautori, lo vediamo purtroppo anche noi quanto SMS e WhatsApp nel nostro piccolo. Quelli dei fautori della Brexit sono sempre più violenti e offensivi di chi era a favore invece che la Gran Bretagna restasse nell'Unione Europea. Non so perché ci debba essere un diverso tasso di rabbia e insulto. È una scelta. E detto questo, Juncker, il Presidente della Commissione Europea, Juncker, ha avuto una breve conversazione telefonica con la Premier britannica Theresa May, ha detto rispettiamo l'ordine costituzionale della Gran Bretagna, e tant'è, come dire, mo sono cavoli vostri, il 7-8 dicembre l'Alta Corte britannica dovrà decidere se deve passare per il Parlamento anche non tanto il via libera alla Brexit, ma la decisione sui modi e sui tempi di questa Brexit, o potrà invece essere gestita direttamente dal governo britannico di Theresa May. Nel team che però ha presentato ricorso all'Alta Corte di Giustizia di Londra c'è anche un italiano, la firmataria era Gina Miller, ma c'è un team che ha preparato questo ricorso, si chiama Ivo Ilic Gabara e lo ha intervistato la nostra Livia Zancaner. Immediatamente, a caldo, nei giorni dopo il risultato del referendum, ci si è resi conto che si stava andando avanti alla cieca e che si procedeva a portare fuori questo paese dall'Unione Europea senza fare valutazioni del caso, senza sapere quali sarebbero state le conseguenze. Quindi quello che si voleva fare in modo è che ci sia una pausa, un momento di riflessione affinché le autorità di questo paese abbiano l'opportunità di valutare con attenzione qual era la forma migliore per portare avanti il Brexit. La stampa ha accusato i giudici di essere contro il popolo, cosa ne pensa? E questo è assurdo, perché i giudici sono l'ultima espressione della democrazia e quello che hanno fatto, la sentenza, è a tutela della democrazia e quindi a tutela del popolo. Theresa May ha ribadito però che il calendario relativo alla Brexit non cambia. Cosa ne pensa? Cosa succederà quindi? Questo genera una situazione di conflitto. Non vedo come il primo ministro possa impegnarsi a rispettare questo scadenziario che si è autoimposta senza prendere in considerazione il fatto che se la Corte Suprema decide a dicembre o a gennaio che effettivamente il Parlamento deve essere consultato, che il Parlamento deve legiferare, allora è ovvio che il governo non avrà la possibilità di invocare l'articolo 50 prima di marzo, perché se il Parlamento deve legiferare, questo è un processo che può durare mesi, se il Parlamento deve con un atto legislativo dare mandato al governo di come negoziare, è chiaro che il governo deve aspettare di ricevere questo mandato. C'è il rischio di elezioni anticipate, come ha paventato qualcuno? Certamente, non lo chiamerei rischio, c'è la possibilità di elezioni anticipate. Il motivo per questo è che il governo May si è autodefinito come governo monomandatario e monotematico, governo che porterà fuori questo paese dell'Unione Europea. Se questo le viene privato al primo ministro come possibilità, soprattutto nei tempi che si è autoimposta, è possibilissimo che il primo ministro, con le mani legate sulla causa per la quale si è espressa con così tanta passione, con così tanta convinzione, verrà in un certo senso delegittimata. Allora, andiamo avanti, veniamo ai temi di casa nostra. No, sorrido prima ancora della classifica, perché ho detto che dal nostro piccolo osservatorio, quelli che sono a favore della Brexit hanno toni sempre più violenti di insulti di chi era a favore del Remain, degli italiani. È bello perché mi scrive un ascoltatore: ma che dici, brutto ste, a causa di alcuni co, tutti pro Brexit sono violenti, ma basta dire ca. Oh, ho detto esattamente questo. Mi ricorda quella scenetta di L'ero più pazzo del mondo, che tutti menavano una dicendole di stare calma. Vabbè, andiamo avanti, veniamo a casa nostra, dove oggi è intervenuto il ministro dell'economia Padoan in audizione, non solo lui, anche Confindustria e sindacati, sulla manovra. Padoan si è scusato con il Parlamento e la Commissione per i ritardi nel presentarla, la nuova manovra è stata complessa, ha detto, e ha spiegato che la manovra vale circa 26,7 miliardi nel 2017, 22,3 nel 2018 e 24,5 nel 2019. Concentrandoci sul 2017, vengono utilizzati 16 miliardi e mezzo per tagliare le tasse, taglia il prelievo, e 10,2 miliardi di aumenti di spesa, così che si arriva a 26 miliardi, cioè 16 miliardi in meno di entrate e 10 miliardi di entrate fiscali e 10 miliardi in più di spesa. E sottolinea Padoan, appunto, 23 da 2014 a oggi c'è stata una riduzione delle tasse di 23 miliardi e mezzo, 15 di IRAP, 16 di l'IRAP nel 2015, nel 2016 la TASI e l'IRES nel 2017. Il segno distintivo della politica del governo consiste nello sforzo di alleggerire le risorse produttive del paese dal peso dell'imposizione fiscale e rilanciare gli investimenti pubblici e privati. Questo orientamento si accompagna allo sforzo più generale del governo teso a rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita attraverso misure su molti fronti: sul mercato del lavoro, sul settore bancario, sulle regole fiscali, sulla scuola, sulla pubblica amministrazione, sulla giustizia civile. Queste riforme, attraverso impatti su competitività, produttività e burocrazia, daranno effetti crescenti nel tempo. Lo sforzo di riduzione delle imposte è stato graduale ma costante, dal carico fiscale sui lavoratori dipendenti con redditi bassi nel 14, la componente IRAP calcolata sull'occupazione nel 15, la TASI sull'abitazione principale nel 16, l'IRES nel 17. L'insieme di queste misure, insieme a quelle sul settore dell'agricoltura, comportano minori tasse pagate dagli italiani nel 2017 per 23,5 miliardi. Adesso arriveremo anche ad alcuni rilievi che ha messo in luce la Confindustria nelle audizioni, però vorrei farvi ascoltare ancora un passaggio del ministro Padoan sullo spread, di cui ci siamo molto occupati in questi giorni. È tornato oggi a 160 punti, quindi livello più alto da febbraio, più alto anche rispetto alla Brexit, e il differenziale con la Spagna che ci preoccupa. Anche qui il differenziale è ai livelli più alti dal 2010-2011, soprattutto il BTP a 10 anni rende adesso l'1,73%, La spiegazione di Padoan è che si teme uno stop della politica economica, quindi lo spread risale, ma fa notare il ministro, negli ultimi 30 mesi è andato scendendo. Lo spread italiano in questi anni, sicuramente negli ultimi 30 mesi, è andato scendendo. E quando parliamo di spread, tanto per precisare, non abbiamo a che fare con il livello generale dei tassi di interesse della zona euro, che dipende dalla Banca Centrale Europea, ma dipende dall'interno di questa cosa dell'apprezzamento del rischio differenziale fra paese e paese. Lo spread italiano in questi ultimi giorni ha invertito una tendenza. La mia interpretazione è che questo è spiegato esattamente da una prospettiva opposta da quella che ha generato la discesa negli anni passati, tanto per essere più chiaro. Io ho valutato la discesa dello spread in questi mesi, in questi 30 mesi, come l'apprezzamento, tra le altre cose, per l'azione di politica economica. Se questa tendenza viene invertita è perché nel mercato ci siano timori che questa azione di politica economica si interrompa. Dicevamo dei rilievi della Confindustria, è intervenuta la direttrice generale di Confindustria Marcella Panucci, che ha detto che Confindustria è preoccupata e ha definito deprecabile il dietro front sul recupero IVA dei crediti non riscossi. Il nuovo regime di comunicazione IVA preoccupa le imprese per l'aggravio di costi, perché rischia di azzerare gli incentivi per le imprese a esercitare l'opzione per la fatturazione elettronica. E poi anche altri punti, nel senso, ha definito la Panucci non condivisibile la previsione di una nuova salvaguardia pensionistica diretta a altri 27.700 soggetti, gli esodati, si interviene così in maniera impropria sulla riforma Fornero, causando ingiustificate disparità di trattamento. Ma ascoltiamo appunto Marcella Panucci sulla definizione deprecabile quanto a dietro fronte del governo sul recupero IVA per i crediti non riscossi. Sul fronte delle coperture, qui vengo ad alcune misure contenute nel decreto legge fiscale, critichiamo il dietro fronte su una misura che era stata importante, prevista dalla legge di stabilità dello scorso anno, che riguardava il recupero dell'IVA sui crediti non riscossi. Non solo per gli impatti negativi sulla finanza d'impresa, ma perché interventi di questo tipo, che rimettono in discussione misure fatte negli anni precedenti positive, minano la fiducia delle imprese e quindi anche le prospettive. Su questo, se il problema era un problema di carattere finanziario, quindi di copertura della misura rispetto al 2017, si poteva magari congelarla per quest'anno e farla partire dall'anno prossimo, ma non invece abolirla. Allora, adesso andiamo al... poi tratteremo del mercato immobiliare del Monte dei Paschi, vedo i messaggi, andiamo alla nostra poco invidiabile classifica, però prima volevo fare anche un appello, spero positivo. E dico, ragazzi, ma che succede oggi? C'è un ascoltatore che mi scrive sullo spread, ma secondo voi di Radio 24 lo spread a 160 punti è una notizia da dare e soprattutto da evidenziare? Ma quanto che siete ridicoli, mandate a Oh, ma che ti ha fatto lo spread? Comunque, dai. È un mondo difficile e vita intensa. Ragazzi, nessuno ha detto che per far scendere lo spread si deve votare sì. Non sto parlando del referendum mai, né no né sì. Ho anche criticato il fatto che il Monte dei Paschi, riconosciuto anche nei documenti del CDA, dica e scriva che gli investitori istituzionali stanno alla finestra in attesa del referendum, anche tanto il referendum non slitterà. Ma mi sembra assurdo che per ricapitalizzare una banca tu debba aspettare come va un referendum. L'ho definito assurdo e lo trovo anche un errore, però tant'è. Oh, prima della classifica che spero faccia per alcuni versi anche ridere oggi, cioè numero uno è una roba. Comunque vorrei fare un appello, perché me lo state scrivendo molto su Norcia. Allora segnalo, non posso fare tutto l'elenco, che ci sono gruppi di acquisto proprio per i prodotti tipici di Norcia, che sono salumi e tutto ciò che ha a che fare con la norcineria, appunto si chiama così l'arte del salume, se non ricordo male. E ci sono vari gruppi di acquisto. Uno addirittura si è formato in Olanda, che chiedono di essere contattati, se li trovate sui siti e sulla rete, Se volete fare un regalo, comprare qualcosa anche per Natale, l'invito è sicuramente a comprare in primo luogo salumi di Norcia, e non posso chiedere di comprare le carote di Norcia, le lenticchie sì, così facciamo contenti anche i vegani, ma salumi, salumi, salumi. Concerto calma, sonata di Bento. Ah, boh. Andiamo con la classifica che oggi è quasi tutta dedicata alla sanità. La classifica della settimana. Allora, partiamo da un quinto posto dove non ho messo la sanità, poi dal quarto in poi sono tutte vicende di cattiva gestione sanitaria e quindi di costi per il sistema, costi per i privati che devono rivolgersi magari a una struttura appunto privata e spreco di risorse pubbliche. Al quinto posto però ci sono i cittadini, non tutti, ci mancherebbe, di Bari, che hanno un tasso di scrocconaggine, adesso mi manca un attimo, sui mezzi, sui trasporti locali, per cui io capisco accusare la classe politica locale, gli amministratori, benissimo, però attenzione con sta retorica della società civile, che spesso la classe politica amministrativa locale anche è espressione della società civile, perché ci sono ogni giorno 33.000 scrocconi, cioè gente che non paga, io non li chiamerei scrocconi, li pagherei ladri, che non pagano il biglietto sugli autobus in tutta la città di Bari. 33.000, praticamente su 77.500 utenti al giorno, i biglietti venduti sono 44.000, 33.500 non pagano il biglietto. Tra l'altro la cosa interessante, e lo dico a tutti i baresi che si mettono la mano sulla coscienza, è che nel 2015 è addirittura crollato il numero di abbonamenti, forse perché hanno scoperto che si potevano pagare il biglietto, gli abbonamenti per un anno sono scesi del 34%, gli abbonamenti mensili sono scesi del 10%, gli abbonamenti giornalieri sono scesi del 30%, gli abbonamenti, o meglio il ticket park and ride, sarebbe più park and bribe, visto che nessuno paga, park and ride meno 33,6%, crescono solo gli acquisti di corsa semplice del 16%. Allora, i 21 controllori schierati sui pullman di Bari hanno nel 2015 redatto sanzioni per in tutto 165.000 euro, ma sono cresciute le sanzioni del 68%. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che l'amministrazione, il presidente dell'AMTAB, Nicola Marzulli, che è la municipalità dei trasporti di Bari, ha detto che adotteranno un sistema britannico, il modello inglese, grazie alle nuove obliteratrici high tech, per cui si entrerà dalla porta davanti, si mostra il biglietto agli autisti, se un passeggero non ce l'ha dovrà acquistarlo. In caso di rifiuto, l'autista potrà premere il bottone sotto il cruscotto per richiedere l'intervento della polizia municipale. Io spero che non si arrivi a questo, e se no predisponiamo anche un bottone per l'espulsione del portoghese. Beh, non vorrei che si fondessero i portoghesi. Vabbè, andiamo al quarto posto. Qui inizieranno i dolori, perché inizio un po' ad arrabbiarmi. Se c'è una cosa che mi manda in bestia sulla sanità sono le finte 104, perché la 104 è una legge importantissima, cioè che dà dei benefici molto importanti ai genitori o ai soggetti che hanno o bambini e figli con disabilità o adulti o hanno parenti anche loro con disabilità importanti. Permette distacchi dal posto di lavoro, permette anche la vicinanza al luogo di lavoro, al luogo dove si risiede, insomma è una cosa importantissima. Io dico, ma almeno non essere così schifosi da truccare la 104, sapendo che in realtà riguarda decine di migliaia di italiani con problemi veri in casa ed è un piccolo aiuto. Ma io veramente, allora, cosa si sono inventati ad Agrigento su 140 fra insegnanti, in gran parte bidelli, magari gli stessi che protestavano in alcuni casi perché dovevano stare a lavorare ad Agrigento, non volevano essere mandati al nord o al centro, insegnanti bidelli gli operatori della scuola. Indagati dalla procura di Agrigento, sono 252 gli avvisi di proroga delle indagini firmati dal PM Andrea Maggioni. In sostanza l'hanno chiamata questa inchiesta la carica dei 101, perché ne avevano beccati 101, poi sono aumentati altre 8, poi altri 9, poi altri 74 indagati. Adesso è in corso un processo per i primi 70. Che cosa dichiaravano? Dichiaravano di aver diritto alla 104 per qualunque cosa, il diabete mellito, che è una cosa molto grave in chi ce l'ha. Beh, pensate che colpiva più della banale influenza, uno su due ne era afflitto. E poi non c'era solo questo, sordità, problemi respiratori, scoliosi, casi di depressione. Allora, la cosa che mi fa infuriare è che chi falsifica lo stato di salute per ricorrere alla 104 è uno schifoso, perché è, come, è equivalente nel piccolo a quello che parcheggia nella sosta degli handicappati, cioè utilizzi uno strumento che viene dato per chi ha dei problemi pro domo tua, e sei veramente schifoso. Però voglio dire, anche schifosi sono i medici che le firmano, perché prima o poi l'ordine dei medici di questo benedetto paese, al di là del fatto che io abolirei tutti gli ordini se non per piccole attività burocratiche, ma l'ordine dei medici potrà intervenire ogni tanto su questi medici delle ASL o medici che firmano tutti i certificati. Guardate che per avere questa mole di 104 false, i malati immaginari, io non li chiamo malati immaginari, quello insomma era Molière, qui insomma sono malati schifosi, sono schifosi reali, non malati immaginari, hanno dovuto superare ben 5 livelli di controllo, 5, dal medico di base, quindi compiacente, farabutto, alle commissioni composte dai medici dell'ASP e dell'INPS, compiacenti e farabutti, fino all'ultimo benestare della commissione medica superiore dell'Istituto per la Previdenza Sociale dell'INPS a Roma, compiacenti e farabutti. Presidente Boeri, capisco che è molto occupato a litigare con il governo che l'ha nominata, possiamo occuparci anche di queste cose, di come funziona l'INPS sulle certificazioni? Perché non è possibile. Tant'è che il direttore provinciale dell'INPS, Gerlando Piro, dell'INPS di Agrigento, dichiara: da qualche parte c'è una falla, che sembra l'ultima parola del comandante del Titanic. Uno sforzo l'ha fatto lui, ha lanciato un ciclo di ispezioni autonome rispetto alla procura, quindi c'è la procura che indaga, ma abbiamo anche l'INPS che indaga, e vabbè, tutti i costi a carico della collettività. E comunque anche le ispezioni che ha mandato l'INPS autonome rispetto a quelle della procura hanno trovato che su 1007 dipendenti pubblici passati sotto esame per la 104, 543 erano schifosi, mentitori. Allora, questo perché lo dico? Perché poi passiamo anche agli amministratori, ma mettete assieme gli scrocconi di Bari e i dipendenti, e i 543 su 1000 dipendenti controllati che dichiaravano il falso sulla 104, e poi mi dovete dire se veramente sempre la società civile, o meglio, se sempre la società politica di quelle parti d'Italia non esprime anche un po' l'andamento, l'atteggiamento di parte della cosiddetta società civile. Meteo, pubblicità, poi andiamo rapidamente al terzo, secondo e al primo, che è mitologico. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta per la classifica, c'è un ascoltatore che mi scrive: spero che il primo posto sia davvero sensazionale, sono già arrivato a casa e sto aspettando in macchina al freddo. Guardi, vado veloce, però le assicuro che non si pentirà. Mentre vorrei restare ancora un secondo sulle 104 finte d'Agrigento, perché abbiamo scoperto che il responsabile dell'ordine dei medici di Agrigento si chiama Salvatore Puma. Dottor Puma, immagino che lei stia intervenendo con tutti sti medici della mutua e più le commissioni composte dai medici dell'ASP che hanno firmato finti certificati di invalidità a questi schifosi, e li stia sospendendo, perché non è che l'ordine serve solo quando non paghi la rata, la quota, ok? Immagino che stia intervenendo in maniera drastica dottor Salvatore Puma, responsabile dell'ordine dei medici di Agrigento, nei confronti di medici che andrebbero radiati. Perché se non distingui un sordo da un non sordo, devi essere radiato che non sai fare il medico. Se sei un farabutto, devi essere radiato ancora di più. Quindi radiateli, sospendeteli. Vedrai che la prossima volta le 104 non le firmano in quel modo. Va bene. Allora, andiamo al terzo posto, perché tutto quello che stiamo raccontando avviene in un bellissimo paese in cui a Bari, visto che parlavamo di Bari, il signor Franco, nome immaginario, che ha una gravissima patologia, si deve sottoporre ogni 6 mesi a un'ecografia completa, a una schemografia ogni anno, e ogni 6 mesi a un'ecografia completa. Che cosa ha fatto? Allora lui andò prima dal dermatologo, 70 euro per la visita privata regolarmente fatturata, deve fare un intervento di asportazione del neo. Franco, che è un professionista barese, non ha ancora 50 anni, si rivolge privatamente a un chirurgo, perché il neo inizia a cambiare colore, non è mai un bel segnale. Con 150 euro il neo viene asportato, la successiva biopsia però non dà buone notizie e suggerisce un secondo intervento, altri 150 euro. Allora a questo punto, dopo, allo scorso, fine del scorso settembre, si mette in coda al CUP del Policlinico, perché ha già speso qualche euro e vorrebbe fare delle analisi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale a cui contribuisce, pagando le tasse. Gli rispondono, nota bene, settembre di quest'anno, per la prima ecografia ascellare cervicale, la prima data possibile è il 18 ottobre 2017. Però lui dice, io ho bisogno di un esame in 6 mesi, come faccio? E va al più grande ospedale della Puglia, l'ospedale di Bari? E beh, torni tra un anno. Allora chiama una clinica privata convenzionata, sempre a Bari, l'esame lo fanno subito, quando vuole, altri 120 euro, ovviamente. Allora, in tutto questo, perché ce l'ho con la sanità, e andiamo al secondo posto, vi racconto una cosa che a mio avviso è incredibile, che come venivano fatti, visto che parliamo di liste d'attesa, dov'è il secondo posto? Eccolo qua che lo becco. Ci sono 10 persone indagate, 2 medici della ASL, 1 di Imperia, un impiegato della stessa ASL e 7 fra titolari e medici di centri privati di analisi, indagati per un insieme di reati che vanno dalla corruzione alla truffa, al peculato, al falso, all'abuso d'ufficio. Sapete cosa succedeva? Le liste di attesa venivano pilotate, fra un po', immagino anche di dietro qualche scambio sessuale, scambio economico, scambio di favori, scambio che cavolo ne so, emoscambio, non l'ho visto. Allora, venivano pilotate a vantaggio degli amici, venivano vidimate fatturazioni per prestazioni non svolte ai centri convenzionati. Allora, praticamente passavano davanti tutti quelli che erano gli amici. Il radiologo Paolo Gero era uno di questi. A un certo momento, che cosa succede, ragazzi? Sono serio. Arriva, ci sono decine di pazienti in attesa al pronto soccorso di un ospedale della zona. Il medico responsabile dell'urgenza, Paolo dell'urgenza, si premurava di fare effettuare, scrivono i carabinieri, un esame radiologico e esami del sangue alla gattina, ma non la pussycat, la gattina di un'amica caduta dal quinto piano di un palazzo, non sto scherzando, cioè veniva prima la gattina veniva prima la gattina delle decine di persone in attesa. Il radiologo Paolo Oggero così si giustifica, cito testualmente, virgolette, non c'era nessuno, vabbè, a parte il fatto che non ci risulta, però se fossimo stati con la sala d'aspetto piena non l'avrei fatto. Ma dai, Oggero, ma è una notizia questa, ma in quella circostanza sia chiaro che ho messo una guaina protettiva alla sonda, capito? A me oggi quel gattino, a parte una gattina, pesa 10 kg e sono contento si sia salvato. Ecco, allora Oggero, vada a parlare con la gattina, guardi che la sta indagando la Guardia di Finanza, che ha compiuto 32 perquisizioni in abitazioni e uffici, comandati dal colonnello Giovanni Battaglia, hanno fatto emergere quello che viene definito un doppio canale. Ragazzi, qua si va sul il doppio canale, io saprei quale, per Oggero, un doppio canale di prenotazioni degli esami, radiografie, ecografie, analisi del sangue. Le liste d'attesa sarebbero state pilotate a beneficio di alcuni centri privati di Sanremo, Bordighera, Andorra e Ventimiglia, tutti convenzionati con la ASL 1 di Imperia. Clienti abituali dei centri privati, che non telefonavano al centro unico di prenotazione, si presentavano direttamente presso le strutture convenzionate, dove veniva subito fatto l'accertamento diagnostico e quindi l'esame. Insomma, era un modo per essere carini, evitavano le lunghe code d'attesa. Tra l'altro, le code si allungavano per i pazienti senza raccomandazione, che si vedevano posticipare l'appuntamento con scuse o imprevisti sopravvenuti, per esempio la gattina, senza contare il fatto che i centri avrebbero superato il tetto del budget stabilito. Immagino che anche qua l'ordine, mi date il presidente dell'ordine dei medici d'Imperia, così, per favore, anche lì il presidente dell'Ordine dei Medici di Imperia starà valutando la censura, la sospensione della radiazione dei medici che a questo si sono prestato, pussycat o non pussycat. Chiedo all'ascoltatore, che è ormai ibernato dal freddo, un minuto di pazienza, e poi arriviamo al primo caso. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Navi a fiamma al largo di Orione, soprattutto. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Oh, si chiama Francesco Alberti, abbiamo appena scoperto il presidente dell'Ordine dei Medici d'Imperia, anche non perché, ripeto, non abbiamo molti strumenti, ma visto che tutti i casi che ho raccontato anche oggi dimostrano diciamo che vergogna, e la vergogna è morta, e la faccia assomiglia a qualcos'altro, almeno se la vergogna è morta usiamo la nostra gogna. Allora, presidente Francesco Alberti dell'Ordine dei Medici d'Imperia, può andare a intervenire, visto quello che ha scoperto la Guardia di Finanza, con i suoi associati, al di là che il fatto che paghino o non paghino le quote a Imperia? Immaginiamo di sì, come il suo collega Puma, Salvatore Puma, a Agrigento. E adesso tenetevi forte, perché io in questi anni abbiamo raccontato di tutto: avvistatori di neve pagati in Friuli, prototipi per l'avvistamento del cuculo in Lombardia, vado a memoria, il jet Termoli Jet che doveva sviluppare traffico verso Međugorje, costò milioni. Io però a quello che sto per leggere non ero mai arrivato. Il danno è poco, forse, ma la dice lunga su questo paese, su alcuni estremi, alcune parti della cosiddetta società civile di questo paese. And the winner is... Allora, the winner is... No, tenetevi la bassa la base adesso, perché io ho bisogno di concentrarmi per non ridere. The winner is... dunque, lui si chiama... È un dipendente della forestale. È stato sospeso dal servizio dal GIP di Potenza, Amerigo Palma. Le iniziali sono S.V. Lui è indagato, ha 43 anni, è indagato per truffa aggravata per essersi allontanato dalla Basilicata per 36 giorni sui 268 che gli erano stati concessi per assistere un parente malato. Quindi, prima cosa, voglio dire, sei, tornando alla categoria di prima, sei uno schifoso, perché usi la 100, anche tu la 104, e tra l'altro la usi per due terzi dell'anno, e 36 giorni non sei neanche in Basilicata. Ma dov'era? E qui un attimo di calma e gesso. Si legge nel verbale: inclusi i giorni dal 23 luglio al 10 agosto 2015, quando il soggetto si recava negli Stati Uniti per girare un film porno. Allora, non sto scherzando. Cosa è successo? Beh, qua, praticamente il caso emerge all'inizio dell'anno, quando sotto gli occhi dei suoi superiori, e già qui la seconda domanda è come mai i superiori stavano guardando, vabbè, appare, mentre guardano il trailer di un film porno ancora in vendita sul sito, gli appare il loro dipendente SV, che risultava in Basilicata in malattia, cioè con la 104, per assistere il parente malato. E già questo è il primo caso, insomma, interessante capire perché i superiori stessero guardando il trailer del porno, se lo stessero facendo durante l'orario di lavoro. Ma la cosa più interessante è la seguente. Allora, gli agenti della polizia postale denunciano e chiedono spiegazioni al dipendente forestale. Perché? E lui come si giustifica? No, adesso per favore un minuto di raccoglimento. Allora lui dice: io sono un abitué di Miami, mi reco lì da diversi anni, sono stato realmente adescato da due signore nella piscina di un albergo, come si vede nel video, ma non mi ero reso conto, data anche la scarsa conoscenza della lingua inglese, di aver appena superato il casting per una produzione hardcore. Ora ragazzi, dopo Scaiola, La casa a mia insaputa, il porno a sua insaputa, io non ci posso credere. Ma come adescato? Da scarsa conoscenza della lingua inglese. Guardi che non serve la conoscenza della lingua inglese per fare un porno. Comunque lui sostiene, la sua linea di difesa è questa: che l'hanno adescato, hanno girato un porno a sua insaputa, è finito sui trailer, è finito su WhatsApp, è finito dappertutto, e indaga la Guardia di Finanza perché una fonte confidenziale informa il corpo forestale sul diverso tipo di usufruzione del periodo di congedo chiesto dall'agente. Dopo quella soffiata gli investigatori risalgono al sito della pornostar, una famosa pornostar, dove il protagonista nostro forestale viene individuato, si legge nel verbale senza troppa difficoltà dai colleghi, e te credo, in uno dei filmati. Dopodiché il PM Antonio Natali dispone di acquisire il suo passaporto per confrontare le date dei viaggi oltreoceano con quelle del periodo di congedo retribuito. A quel punto il GIP boccia le tesi dell'attore involontario e scrive il magistrato: il fatto che il forestale si sia allontanato dal parente che avrebbe dovuto accudire, poveretto, verrebbe aggravato dall'evidente violazione dell'espresso divieto di svolgere in concomitanza del congedo qualsiasi attività lavorativa. Dal momento che le circostanze di tempo e di luogo, gli impegni economici sostenuti dall'indagato, il profilo professionale dell'attrice protagonista, la pubblicazione e pubblicizzazione online fanno evidentemente ritenere che l'attività, aggiungo io, da porno attore, sia stata regolarmente retribuita. Da qui la sospensione del servizio per 3 mesi più un giudizio disciplinare appena aperto. E tra l'altro anche per i superiori quel video, stante le modalità di ripresa, non è da considerarsi ad uso personale né effettuato senza la sua conoscenza. Io voglio dare un applauso all'attore porno a sua insaputa. Adescato da 2 signori nella piscina di un albergo, non si rende conto durante l'atto sessuale di essere, per la scarsa conoscenza della lingua inglese, noto che devi essere, capito, alla Fulbright, di aver appena superato il casting per una produzione hardcore. Si chiamano realities. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Eh sì, lì siamo rimasti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni al primo posto della nostra classifica. Guardate che le batte tutte, ripeto, gli avvistatori di neve, i 18 processi per quell'avvocato che aveva ucciso un piccione ubriaco, qualcuno se le ricorda? Oppure il prototipo per l'avvistamento di cuculi in Lombardia, anche le caprette della Marina Militare, mi segnala qualcuno, a brucare l'erba. No, le batte tutte, il porno attore, assenteista, schifoso falsificatore di 104 della Basilicata, che dichiara di essere porno attore a sua insaputa con tutti i superiori che comunque hanno beccato, è un mondo, si apre uno squarcio su un mondo fantastico. Mamma mia, ma il porno attore a sua insaputa ci mancava. Va bene, chissà se era a sua insaputa passivo o attivo. Comunque vorrei adesso andare invece a chi come sempre dovrebbe tirarci su un po' l'umore, ossia chi ha lanciato un'impresa in questi anni di crisi, si è rimboccato le maniche, ha accettato il rischio, non un rischio così alto come quello del porno attore, ma insomma un bel rischio. Però io vorrei il nome, S.V. Comunque dai. Umberto Malesci, numero uno e fondatore di Fluid Mesh, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Allora, qui non parliamo di porno attori, cosa fa Fluid Mesh? Quando è nata e chi vi ha dato una mano? Allora, siamo nati nel 2005, siamo un'azienda che fa trasmettitori radio per applicazioni industriali, ferroviarie e anche governative. Ci hanno dato una mano in tantissime persone, prima di tutto partirei dal team dell'azienda che abbiamo assunto negli anni. Ci ha dato una mano l'Italia, ci ha dato una mano il mercato americano, ci hanno dato una mano gli investitori americani, quindi Ecco, l'avete fondata lei, se ho ben capito, e chi altri? Così andiamo anche ai meriti. Allora, i meriti vanno, allora, mio fratello Cosimo e poi altri due soci, sempre italiani, Andrea Orioli e Torquato Bertani. Dov'è a sede e voi da che mondo provenivate? Quanti anni avete? Allora, al momento abbiamo tutti una trentina di anni, noi eravamo, quando l'abbiamo fondata nel 2005, eravamo studenti di ingegneria, due di noi eravamo a MIT a Boston e gli altri due erano al Politecnico a Milano. E da lì siamo, da lì dal 2005 siamo partiti con questa. I capitali ve li andati negli Stati Uniti, ma avete provato anche a chiederli in Italia? Sì, abbiamo provato anche a chiederli in Italia, non ci siamo fatti grossi problemi, poi le condizioni dei capitali americani erano migliori e quindi chiaramente lì è un mercato competitivo. E a chi avete venduto il sistema Fluid Mesh, che se ho ben capito appunto serve anche mettere in sicurezza, quindi videosorveglianza, ma anche sui treni ad alta velocità, no? Sì, noi abbiamo un grosso mercato con le forze di polizia americane, quindi il nostro sistema wireless è stato usato nelle maggiori città per grandi manifestazioni, come può essere la città di Chicago, la città di New York, quella di Charlotte, quindi durante Boston, durante grandi manifestazioni, soprattutto legate alla protezione per il terrorismo. Quello è un campo di applicazione. L'altro campo di applicazione è il campo della connessione dei mezzi in movimento, soprattutto mezzi mobili, e lì abbiamo una serie di applicazioni nel campo ferroviario, per esempio treni, il treno che connette la città di New York all'aeroporto di JFK è un esempio di questa applicazione. Abbiamo anche una sperimentazione in corso con i treni ad alta velocità in Italia. Quindi banche italiane non vi hanno dato finanziamenti? Ma le banche italiane qualcosina effettivamente ci hanno dato anche all'inizio le banche italiane, però tipicamente le aziende innovative non vengono finanziate dalle banche, ma piuttosto da fondi specializzati in questo tipo di investimenti che hanno una rischiosità chiaramente più elevata. Quanti siete adesso, quanto fatturate e le prospettive? Allora, siamo una quarantina di persone, di cui il grosso è diviso tra gli Stati Uniti, dove siamo a Chicago e a New York, e l'Italia, dove siamo a Milano e a Pisa. Poi abbiamo anche alcune persone in Sud America, in UK e in Asia, però il grosso è tra l'Italia e gli Stati Uniti. Allora, il fatturato, essendo un'azienda americana, non è un dato pubblico, però comunque si parla di milioni di euro. Bene. Le prospettive sono molto buone, perché l'anno scorso siamo cresciuti tra il 25 e il 30%, speriamo di fare un risultato simile di crescita anche quest'anno, quindi un'azienda che negli ultimi anni ha dato grosse soddisfazioni. State assumendo anche in Italia? Stiamo assumendo un po' dappertutto, anche in Italia, sì, abbiamo appena assunto tre persone. Con che profilo? Ingegneri o sul lato ricerca e sviluppo, quindi proprio sul lato sviluppo software, oppure ingegneri sempre, però più sul lato, diciamo, di gestione del cliente e dei progetti. Allora, in bocca al lupo come sempre a lei, ai 40 dipendenti e a quelli che assumerete, sperando che siano sempre di più, e quindi a Umberto Maresci, a Cosimo Maresci e Andrea Orioli, i tre fondatori di Fluid Mesh. I wanna be free. E adesso vi prego, basta col porno attore assenteista che richiedeva la 104, non posso più andare avanti, non vi dico cosa sta arrivando sulle iniziali SF, S.V. Ne dico solo una perché è bellissima, Socco Viffredi, va bene. Allora, andiamo alla borsa, meno 0,60%, Parigi meno 0,80%, Francoforte meno 0,60%, Londra meno 1,40%, continua la borsa di Londra a essere più negativa di altre, Dow Jones più 0,30%, il caso di oggi si chiama di nuovo Monte dei Paschi, è chiuso sui minimi, meno 9,17%, non bene anche Popolare di Milano meno 3,70%, Banco Popolare meno 3,50%, Leonardo Finmeccanica meno 3,40%, Unipol meno 2,80%, Telecom meno 2,60%, Unipol Sai meno 2,30%, Recordati meno 2,20%. E invece, beh, su Telecom realizzi anche dopo i conti. Leonardo Finmeccanica in realtà è più articolata, i conti erano buoni, ma ci sono incertezze da quello che leggiamo sul settore elicotteri civili. Bene, invece Tenaris più 4,70, Luxottica più 1,90, Snam più 1,1, Ferrari più 1, Unicredit più 0,70%. Su Tenaris sono piaciute le indicazioni arrivate al mercato dai conti sul recupero della domanda di tubi per petrolio. Terna anch'essa bene tutto il giorno, poi chiuso piatta più 0,14, conti in crescita. E Luxottica segue un trend complessivo del settore occhiaterie lusso in questi giorni, più 1,90%. Migliori e peggiori in assoluto: Carraro più 13,40, Tenaris appunto, Gambro Rosso più 3,5, Stefanel più 3,20%, peggiori in assoluto Fiera Milano meno 10 e poi Monte dei Paschi. E da qui partiamo, dal Monte dei Paschi, perché c'è una nuova forte incertezza sul titolo. Oggi ne ha scritto Marco Ferrando su Sole 24 Ore, che è il nostro ospite. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Nei primi 9 mesi dell'anno la banca ha registrato 850 milioni di perdita contro 580 milioni di utile nello stesso periodo del 2015. Inflessioni, ricavi, insomma i conti non sono belli di Monte dei Paschi, ma se ho ben capito la banca starebbe tra l'altro nuovamente oggetto di un'ispezione da parte di BCE e Banca Italia. La banca ha ammesso nei verbali, diciamo, dell'assemblea che gli investitori aspettano i riscontri ottenuti dalle banche del consorzio di collocamento evidenziano la sostanziale indisponibilità manifestata dagli investitori istituzionali ad assumere importanti decisioni di investimento, quindi partecipare o no all'aumento di capitale del Monte dei Paschi, aggiungo io, prima di conoscere l'esito del referendum costituzionale. Marco, ma questo non rischia di diventare un cortocircuito? Sì, assolutamente sì, anche perché il referendum sarà il 4 dicembre e il 5 dicembre o 6, il 7, insomma quei giorni lì sono i giorni in cui il Monte dovrebbe iniziare la sua operazione di aumento, e quindi c'è una coincidenza che è veramente sinistra. Come dicevi tu, questa combinazione era nell'aria, da ieri è scritta nero su bianco perché è nei documenti che il Consiglio ha approvato in vista dell'Assemblea. L'operazione che ci ha raccontato Morelli settimana scorsa sarà ai voti in assemblea il 24 novembre, e però c'è questa spada di Damocle. Ecco, molti mi chiedono in maniera non polemica, ma perché bisogna aspettare il referendum costituzionale per sapere cosa verrà su una banca in cui, per carità, lo Stato è un socio importante perché ha trasformato il famoso prestito in azioni. Ma insomma, non c'entrerebbe una beata nulla il sì o no al referendum con un'operazione che vede il Monte dei Paschi dover chiedere 5 miliardi o di aumento oppure di soci che entrano e quota minore. Tra l'altro si sta ipotizzando di convertire in azioni non solo i bond, le obbligazioni subordinate, ma anche quelli senior più ordinari in mano, diciamo, alla clientela retail, ai risparmiatori. La risposta, per favore Marco, dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Allora, Marco Ferrando, perché aspettano il referendum? Non è una domanda, diciamo, naif o da demi-vierge, da mezza vergine. E se è vero, insomma, che si sta, cosa vuol dire che si sta ragionando anche di convertire le obbligazioni senior in azioni? Ma il legame col referendum è legato al fatto che l'operazione Monte Paschi è un'operazione a cui il mercato attribuisce una grandissima correlazione col rischio Italia. Nel senso che i mercati da un po' di settimane, lo vediamo anche sullo spread, ragionano su una possibile forte incertezza politica derivante da una vittoria del no, che tra l'altro pare in vantaggio sondaggi alla mano. E quindi il Monte, che come dicevi, una banca in cui lo Stato è presente solo il 4%, ma che è al centro di un'operazione che ha evidentemente la regia dello Stato, del governo, perché comunque i contatti con JP Morgan per la cacciata di Viola, la cacciata di Viola su input del ministro Padoan, insomma sono una serie di segnali. Oddio, da quello che ha riferito Viola è stato Renzi a dire a Padoan di chiamare, esatto, Tononi, che lo dicesse a Viola. Comunque non gliel'abbiamo detto noi. Non gliel'abbiamo detto noi, e sembra che fosse una richiesta, ormai insomma l'ha dichiarato da più parti Viola, arrivata direttamente da JP Morgan. Se volete che noi partecipiamo, mandate via Viola. Questo esattamente. Mm-hmm. Quindi, insomma, un'operazione, la banca è al centro di un'operazione molto complicata in cui la regia del governo è stata importante ed evidente. E presenta margini di incertezza tali per cui dovesse avvenire in una situazione di politica incerta, evidentemente rischia aumentare. Questo secondo te è anche il motivo per cui anche Unicredit, che non c'entra nulla con la vicenda Monte dei Paschi, che non ha gli stessi problemi, però ha anche lui, tra le ipotesi, l'aumento di capitale, e che aumento di capitale, ho visto cifre mirabolanti, 10 miliardi di euro, ha posticipato al 13 dicembre la presentazione del piano industriale? Sì, è così, perché... Cioè, tutti aspettano il referendum. Può succedere di tutto, sì, può succedere di tutto. Anche se dobbiamo dire oggi, Carlo Messina di Intesa, che ha presentato i suoi conti, ha detto non è la Brexit, è troppa enfasi sul referendum. Vedremo. Vedremo, non è un bel segnale, nel senso che tanto l'aumento di capitale Monte dei Paschi deve farlo comunque, voglio essere chiaro, non è che sia un aumento sub giudicio del referendum o no, devi farlo perché non hai più i criteri patrimoniali, hai la BCE che te lo chiede e via così. Unicredit, anch'essa, ha bisogno di trovare nuove risorse per riequilibrare i criteri patrimoniali, è troppo lungo spiegarlo, ma insomma di nuovo di mezzo ci sono i non performing loans, quindi le sofferenze bancarie, i crediti che non ti torneranno più indietro. Non è una cosa opinabile, lo faccio o non lo faccio, devi farlo. Ecco perché risulta singolare che si dica vediamo dopo. Il motivo l'hai spiegato bene: politicamente gli investitori stanno alla finestra, non ne vogliono sapere di investire in Italia, soprattutto sulle banche, prima del referendum. Mi sembra una situazione un po' da cul-de-sac e soprattutto anche molto ingrabugliata, in cui si fondono due cose che non dovrebbero fondersi, ma tant'è, grazie anche a Marco Ferrando. Andiamo all'ultimo tema, una buona notizia per chi ha casa in questo paese, per chi deve venderla, per chi vuole comprarla, anche visto che i prezzi sono ancora abbastanza fermi, ma il dato di oggi è incredibile su compravendite, numero di compravendite, numero di mutui, si è tornati ai massimi dal 2011. Sì, il dato è inequivocabile, più 20% le compravendite nel secondo trimestre del 2016, più 24,5% i mutui, tra l'altro sono stati firmati in tre mesi 200.000 atti notarili, quindi stiamo parlando di contratti veri e propri di acquisto e di cessione, è il livello più alto dal 2011. Luca Dondi, che fa l'analista di mercato immobiliare per Nomisma Real Estate, buonasera. Buonasera a voi. Questo dato aggregato, chi corre di più? E la domanda che mi stanno già facendo è se questo ha già una ripercussione sui prezzi degli immobili. Corrono di più le città maggiori, con Milano in testa, che fa come sempre da battistrada la via della ripresa. Non sono segnali che hanno ancora un riscontro nei prezzi, che sono ancora in flessione, anche se più contenute rispetto al passato, e questo dipende da un eccesso di offerta che si fatica a smaltire e che quindi di fatto stabilisce un gap temporale tra la ripresa delle compravendite, certo, che è molto netta ma che è relativa alla prima parte dell'anno. I segnali della seconda parte sono positivi ma non così positivi come quelli della prima parte dell'anno, e quindi i segnali sui prezzi saranno al più di livellamento sui livelli dello scorso anno e non certo di ripresa. Diceva, le grandi città da un lato e dall'altro però non c'è ancora una tensione sui prezzi, con, se ho ben capito la sua anticipazione, un dato ancora positivo ma in rallentamento nella seconda metà dell'anno. L'Istat ci dice che traina soprattutto il residenziale. Da quello che voi avete capito, visto che comunque c'è una forte crescita dei mutui, c'è anche un flusso di investimenti, quindi di acquisti, che va sul mattone perché la borsa è troppo incerta e le obbligazioni rendono nulla? Ma in parte sì, però è una condizione che probabilmente era figlia dell'ottimismo che si era diffuso sulle prospettive macro e di settore sul finire lo scorso anno, e che quindi ha portato dati molto positivi nella prima parte di questo, ma che in parte si sono attenuati nel momento in cui si è capito che quell'ottimismo, soprattutto a livello di contesto, era eccessivo, complice alcune scadenze anche politiche che di fatto impongono oggi maggior attendismo dal punto di vista degli investimenti. Ma è il referendum? e anche il referendum. Oh, ma il referendum, cioè, ragazzi, questo è un paese che vivrà da qua al 4 per il referendum. No, lo dico con roba da pazzi. No, mi scusi, l'ho interrotto, prego Dondi. No, no, assolutamente, ma sono una serie di elementi anche internazionali che di fatto hanno riflesso sulle banche, che sono, come lei ricordava, il motore di questa ripresa, perché la domanda che si riaffaccia è una domanda che in molti casi ha bisogno di finanziamento, e quindi questo canale bancario di fatto è molto più collegato alle scadenze politiche di quanto si possa pensare, ed è il motivo per cui leghiamo anche alle dinamiche di politica e quindi alle scadenze elettorali un andamento di settore che dovrebbe essere autonomo rispetto a eventi di questo tipo. È proprio il canale bancario che di fatto stabilisce un legame che altrimenti non ci sarebbe. Sì, dico, io prendo atto, cos'altro devo dire? Mi sembra assurdo che dal salvataggio o l'aumento di capitale di alcune banche all'investimento immobiliare un paese sia, diciamo, sospeso in attesa di questo referendum, che dovrebbe essere un referendum con altri fini, decidere se uno piace la riforma della Costituzione oppure se uno non piace e vuole tenersi la Costituzione che già abbiamo. Le grandi città, me lo chiedono gli ascoltatori, l'ultima domanda che ho per lei, crescono nord e sud del paese o notiamo differenze? Ci sono differenze, sono soprattutto le grandi città del nord, in particolare Milano, Bologna e Firenze, che hanno fatto registrare andamenti migliori, anche dal punto di vista dei prezzi sono più maturi in quei casi i punti di svolta. È ovvio che è uno scenario che è legato in maniera indissolubile a un contesto generale, per cui la svolta dei prezzi è necessariamente legata a una prospettiva economica di crescita del paese che, si dovesse attenuare, come non è escluso avvenga, avrà inevitabilmente un effetto di rallentamento anche dell'entusiasmo che si sta oggi registrando sul mercato, soprattutto nella prima parte dell'anno, un po' meno in questa. Grazie, no, grazie perché ci ha fatto capire sia perché si è mossa nella prima parte in maniera molto chiara, anche perché sta rallentando pur con crescita, sempre col segno più, il numero di compravendite e anche di atti notarili. Grazie a Luca Dondi, analista mercato immobiliare di Nomisma Real Estate. Allora, rassicuro l'ascoltatore che noi non solo abbiamo massimo rispetto per chi seriamente, ahimè, deve utilizzare la legge 104, qui voglio essere serio, che riteniamo un'ottima legge che vada anche delle volte maggiormente finanziata, ecco perché definiamo schifosi e vigliacchi tutti quelli che se ne approfittano di una legge fatta per chi ha un dolore in casa, vuoi sul figlio, vuoi sui genitori o parenti stretti, e se ne approfittano inventando scuse sulla 104. A me non resta che ringraziare come sempre Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana, e augurare a voi in ascolto un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà trascorrerlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.